slash and soar. Riccardo, very important speech. Grazie per questo paper, è molto interessante. Siamo un po' in ritardo riguardo la nostra agenda, perché abbiamo effettivamente iniziato con un po' di ritardo, per cui dobbiamo cercare di recuperare. Dopo il keynote speech abbiamo tre paper selezionate e due discussions. Per favore, chiamo Alice. Tre paper selezionati sono i seguenti. Vorrei leggerli così come indicato nel programma. Alice Pelletier, Università di Dundee. A lei la parola. Le chiedo di tenere il rispetto dei tempi, altrimenti non ce la facciamo. A un certo punto dovremmo avere anche un po' di tempo per la discussione. L'argomento selezionato è ristabilire il collegamento fra la direzione e il lavoro e l'occupazione nella definizione delle organizzazioni. Già il titolo richiede una spiegazione, penso. Aiuto tecnico. C'è qualcuno che può aiutare la Geggio lì? Ah. Sorry, originally there were it's okay. Yeah, one has been abolished. Oh, okay. I think the voucher is not there. Okay. Everything's in Italian. We have to keep the base. Okay. Is this about right for volume? Mi sentite bene? Chiede la relatrice. Il volume va bene? No? Più vicino? Più vicino? Va bene. Grazie per avermi fatto cenno. Da qui capite che non sono veramente abituata a usare un microfono, perché piuttosto in generale mi ritrovo a urlare. Mi chiamo Alice Belcher, vengo dall'Inghilterra, come potete sentire, e dalla Università di Dundee, che però è in Scozia. Innanzitutto, in questo audience misto di giuslavoristi e economisti, vorrei chiedere chi conosce fra di voi Ronald Coase e questo paper The Nature of the Firm, la natura dell'azienda. Chi di voi lo conosce? Bene. Bene, Ronald Coase purtroppo morì lo scorso anno a 91 anni, era un premio Nobel. Non so se conoscete questo paper, ha formulato le sue idee nel 1932, estate del 32, mentre studiava per ottenere la laurea presso la London School of Economics. Scrisse l'articolo mentre ha avuto il suo primo incarico accademico come professore a Dundee, nella piccola, appena nata, scuola di facoltà di economia e commercio dell'Università di Dundee, ed è lì che diffuse le sue teorie nelle prime conferenze che fece a Dundee, che sono la base del suo paper La natura dell'azienda, per dare appunto una posizione geografica e intellettuale, perché mi sono occupato dello studio sulle teorie e le idee di Coase sulla natura dell'azienda. Perché è importante? Perché la direzione del lavoro può essere meno costoso che utilizzare il mercato, quindi si può fare questo o quell'altro oggi, ma questo o quell'altro domani, piuttosto che il fatto che l'organizzazione che vada sul mercato per fare chiedere a questo o quello può fare questo, qual è il prezzo, può fare quest'altro servizio, qual è il prezzo. Questo spiega l'esistenza dunque di organizzazioni come le aziende, cercando di capire perché. Si tratta di aziende organizzate come aziende, come mezzo di produzione economica, come, per spiegare la dimensione che dovrebbero raggiungere. Quindi il punto O è sempre il seguente: saranno disposte a pagare una extra per la transazione di scambio sotto l'autorizzazione che ha la responsabilità dell'azienda. Ovviamente non sono nella posizione di dire loro cosa fare, quindi dice il concetto legale del datore di lavoro e del lavoratore, il concetto economico di un'azienda non sono identici, ma l'identità di questi due concetti è sufficientemente vicina per permetterci un esame del concetto legale affinché abbia valore nel valutare il valore del concetto economico. Quindi che cosa cercherò di fare in questo paper? L'ordine è un po' cambiato, per cui mi scuso in anticipo, ma praticamente voglio analizzare il diritto inglese perché in parte il diritto inglese, perché quando Coase scrisse il suo paper utilizzò come riferimento i testi legali, un testo legale inglese, e poi dopodiché ritornerò agli anni 30 per analizzare il suo libro che scrisse, e se poi esamino le sue teorie alla luce del passato e del presente, qual è il confronto che posso fare fra il 2010 e il 1930? Vediamo che non era la base ideale negli anni 30, ma nel 2010 voglio capire come si posiziona, e ho capito che in sostanza, nella forma, richiede analisi e discussione. Questo è il libro di testo di riferimento, la legge del padrone e del servo, The Law of Master and Servant, cita dicendo che il servo deve essere in servizio e il padrone deve avere il diritto di controllare, si avrà il controllo e organizzare, ma si deve rinunciare ad alcune cose perché si hanno anche dei doveri, cioè i lavoratori, come si legge a pagina 6 di BAT, ciò che non fa, due pagine dopo, leggiamo quanto segue, un'altra citazione, BAT dice: la distinzione fra un servo e un contraente indipendente è uno che continuamente si ritrova ad occupare i tribunali. Praticamente Coase diceva, in effetti è così vicino che potrebbe andare bene, nel senso che si ha un contratto di lavoro, il lavoratore o il servo ha un dovere e il padrone ha il controllo, ma due pagine dopo dice: un attimo, però non mi è chiaro, ma perché aveva senso, contava una cosa del genere nel 1933? Ovviamente le ragioni non sono tanto diverse oggi rispetto a quanto lo fossero allora, perché dipende dalla responsabilità del datore di lavoro, perché il datore di lavoro è responsabile nei confronti del lavoratore o servo che potrebbe essere appunto danneggiato. Quindi c'è anche però d'altra parte il dovere e la responsabilità del datore del lavoro nei confronti di un altro lavoratore che può soffrire di una lesione anche da parte di terzi, e ha senso, ha importanza, perché anche allora c'erano delle tutele stabilite dalla legge, così come stabilito da questa legge sul risarcimento ai lavoratori, che dipende dal contratto di servizio del 1897, che fa riferimento ad allora. E quindi Bat aveva ragione, il suo libro di testo diceva, insegnava agli studenti di diritto del lavoro, dovevano andare a interpretare la serie di clausole della legge del 1906. con l'interpretazione della legge del 1906 che fa riferimento appunto a quella precedente. Per esempio riguarda un assistente di una lavanderia così come un insegnante di piano, per capire se ci sono delle tutele di lavoro, se c'è appunto una tutela nei confronti per esempio dell'insegnante di piano. Naturalmente non vi era nessun tipo di tutela, ovviamente si trattava di magari un assistente di lavanderia che essendo abbastanza povera doveva magari dare anche lezioni di piano, viceversa. E quindi la risposta era no, non c'erano tutele, oltre a lavorare come moglie e sposa, e quindi non si capisce come avrebbe avuto diritto a questo risarcimento. Si parlava di un test di controllo e si diceva anche negli anni 30 si sapeva che il controllo è la chiave per fare distinzione fra un contraente indipendente e un impiegato, ma questo dice anche un attimo, non è, il controllo non è l'elemento chiave, non è l'elemento cruciale, quindi si fa riferimento a un altro caso del 1910, cioè di un giocatore di calcio o di football nella causa Walker Crystal Palace Football Club, per cui lavorava ed era appunto occupato presso questo datore di lavoro. Inoltre, negli anni 30 troviamo ciò che io ho etichettato come segue, una versione molto embrionale della domanda: ma alla fine a chi spetta? Chi è che ha questo tipo di competenza? Chi deve fare cosa? Quindi si tratta di un caso molto antico di un ragazzo di bottega che era stato impiegato da un macellaio che era fra l'altro anche il proprietario della vacca, e il caso dice non sembra che praticamente il macellaio non stesse controllando il servo e non durante la mansione del macellaio, ma piuttosto del allevatore, quindi il risarcimento spettava a una funzione piuttosto che all'altra. E voi mi chiederete: ma qual è il legame? Praticamente il ragazzo si lasciò sfuggire la vacca, non che causò dei danni nel negozio di un altro proprietario di un negozio di ceramiche. Bisogna capire quali sono le responsabilità del lavoratore, del datore di lavoro nel 2010. Se si ha un contratto di lavoro in Gran Bretagna, ovviamente ci sono dei diritti del lavoratore e bisogna provare molto per far valere i propri diritti di lavoratore. Ovviamente ci possono essere varie quando si parla di occupazione bisogna fare riferimento anche ad altre discipline, ad altre leggi, non soltanto a quello. Ma vediamo la legge attuale, c'è un caso che si chiama Lane vs. Shire Roofing Company dove si fa la stessa cosa. Ok, il controllo è importante, è un elemento, è veramente importante, ma se bisogna anche guardare qualcos'altro, la competenza ricade su chi? Ok, il controllo, ma alla fine chi è il responsabile? A chi spetta la competenza? Rispetto al Stoning Common Job, un piccolo villaggio sul Tamigi, si parla di lavoratore che doveva aggiustare un tetto e che è caduto e si è fatto male, e quindi c'era un forte risarcimento che spettava questo lavoratore che in quanto è rimasto invalido totalmente. Ma la risposta riguardo a questo caso è stata: Mr. Bain, bisogna capire di chi era la competenza, la responsabilità. Se andiamo a guardare, vediamo che era un muratore per conto proprio, non era appunto assunto da nessuno, ma fatturava come piccolo artigiano autonomo, e addirittura lui pagava le tasse in quanto imprenditore libero professionista. Alla fine bisogna capire chi era, di chi era la responsabilità, chi ci guadagnava. Se si va a vedere la forma, si può capire che il signor Lane, che è un contraente libero, oppure nella sostanza, da quel punto di vista lo si vede come lavoratore, quindi dipende dal punto di vista. Ho ancora 10 minuti. E quindi sostanza e forma negli anni 30, e quindi bisogna anche vedere che cosa succede nel diritto. Negli anni 30 si fosse stati consapevoli della differenza fra sostanza e forma. L'occupazione quindi può ricadere nel sistema aziendale se si assume del personale, si diventa un'azienda. E lui in questo caso utilizzava il controllo dicendo ai dipendenti cosa fare e cosa non fare, piuttosto che avere dei contratti spot. E bisogna anche capire qual era il beneficio, il vantaggio che se ne traeva. Vale la pena assumere un'altra persona, oppure è meglio subappaltare qualsiasi altro lavoro? Bisogna capire di quanto controllo si ha bisogno. E quindi studiando, analizzando questa questione della sostanza e della forma, vediamo che cosa si diceva negli anni 30. C'era un caso fiscale di diritto tributario, ecco il caso a cui faccio riferimento, cioè degli ispettori del fisco nella causa contro il duca di Westminster. Era un caso di evasione fiscale, ovviamente non so quanti paesi hanno questo tipo di problematica, ma questa problematica sicuramente è comune al nostro paese. In questo caso praticamente negli anni 30 si dibatteva di questo, cioè la forma che prevaleva sulla sostanza in questo caso di diritto tributario, la forma di ciò che è stato fatto. Il duca di Westminster praticamente ha utilizzato gli atti che avevano un valore legale vincolante per pagare appunto i lavoratori assunti nella proprietà terriera, quindi questi lavoratori avevano diritto a essere risarciti in base a questi atti legali. Quindi la questione è: si tratta di donazioni oppure di stipendi, di salari? La sostanza, il proprietario terriero si aspettava il solito per quanto riguarda il suo rapporto con i suoi fedeli servitori. Vi è un obbligo psicologico di operare come al solito in risposta alle proprie istruzioni. L'aspettativa è che i lavoratori si comporterebbero come se ci fossero delle gratuità come compenso del lavoro effettuato, ma alla fine questo è quanto dice la legge in base alla forma. Love Right sentenziò: una volta ammesso che l'atto è un documento vero, secondo me non c'è spazio per la frase in sostanza, o più precisamente la vera natura dell'obbligo legale e nient'altro è la sostanza. Perché il duca di Westminster voleva che succedesse una cosa del genere? Lo voleva in quanto egli devo fare un salto su un'altra pagina, dice la relatrice. Praticamente nel far ciò, un attimo, mi sono un attimo persa, dice la relatrice, praticamente riduce la sua, il suo obbligo fiscale, non riesco ad andare indietro, scusate, praticamente riduce il suo dovere fiscale, perché questi pagamenti dal suo punto di vista sono gratuità, donazioni, riduce quindi il suo reddito annuo, perché è come se avesse fatto una donazione e questo ridurrebbe la sua esigibilità, la super tassa che avrebbe dovuto pagare, quindi lui riduce i profitti nel momento in cui fa una donazione piuttosto che riconoscere dei salari ai propri dipendenti, e questo è il punto. E quindi che cosa succede adesso in Gran Bretagna? Ci sono molti datori di lavoro che cercano di fare quello che fece il duca di cioè di tenere controllo sul lavoro, sui lavoratori, tenerli sotto controllo, ma senza tenerli come lavoratori dipendenti. Quindi un modo potrebbe essere di scrivere una forma di documento che li può far apparire come subappaltatori piuttosto che dipendenti. Questo è che si cerca di fare attualmente in Gran Bretagna. Il contratto si scrive: benché io mi aspetto che tu venga a lavorare dalle ore tot alle ore tot, una cosa del genere, benché io mi aspetto che tu venga a lavorare, non puoi mandare un sostituto. Nel momento in cui mandi un sostituto, distruggi la natura stessa del contratto, quindi la sua forma sembra non più essere quella del lavoro dipendente. Ho guardato, analizzato alcuni casi, la giurisprudenza che cosa ci dice? Come Calwork, vediamo a livello del tribunale, c'è stato un tentativo che ciò è inammissibile, ci deve essere una clausola che modifichi, ma la forma che batte la sostanza. E quindi praticamente questi signori si chiamano Belfier come me, ma no, io non c'entro niente, è un caso, è una casualità, magari i miei studenti possono trovarlo divertente. Questo caso, Autoclaims Ltd. versus Belfier and others, praticamente in questo caso si cita quanto segue questo ecco quanto detto. Noi sappiamo che il tribunale rifiuterà questa affermazione. I tribunali devono essere attenti alla preoccupazione che gli eserciti di avvocati hanno semplicemente delle clausole sostitutive o clausole che negano l'obbligo di accettare o fornire lavoro in contratti di lavoro come forma. Ma adesso dovrei concludere, mi si dice. Quindi le proteste elaborate nei documenti contrattuali che, che Belcher e colleghi praticamente loro avevano un autolavaggio, dicevano che erano lavoratori indipendenti, liberi professionisti, ma in realtà erano dipendenti e quindi potevano prenderne il beneficio. Ok, ce l'ho fatta in extremis, grazie per la vostra attenzione finora. La questione dunque che lei ha discusso è molto pregnante e conosciuta a tutti i giuslavoristi, compreso me, ed è una storia nota, vecchia e continua a cambiare, quindi dobbiamo seguire le forze evolutive. Adesso però dobbiamo passare agli altri due paper, uno purtroppo non ci sarà. E quindi le implicazioni recenti, evoluzioni per il mercato del lavoro, Non abbiamo qui Pontigia, ma abbiamo Lala Hu, una collaboratrice. Quindi passiamo dalla bella Inghilterra alla Cina. Lei ha quindi 20 minuti. By the way, un attimo, mi sono dimenticato di dirvi una cosa, o di fare un annuncio importante. Non avremo coffee break, ma non disperate, se non ce la fate a resistere fino a l'una, vi riassicuro che c'è comunque un coffee break free flow aperto a tutti quando lo desiderate. Mi chiamo Lala Hu. Arco Savornian, vorrei ringraziare la Fondazione Marco Biagi per aver l'opportunità di presentare il paper China's Human Resources Development Recent Evolution Implication for the Global Market. Now I'll switch to English. Okay, just a few words on alcune parole nel Lima Lab, dove abbiamo effettuato questa ricerca. C'è una ricerca finanziata nel 2012 presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, finanziata con lo scopo di mettere insieme ricercatori esperti per analizzare il mercato asiatico da una parte e d'altra parte gli operatori, imprenditori di imprese che operano sul mercato cinese e in Cina. I principali obiettivi sono management, marketing e organizzazione. Questo è l'argomento che ci interessa maggiormente. Le quattro questioni in agenda sono le seguenti: innanzitutto convergenza o divergenza per quanto riguarda le politiche di gestione delle risorse umane, se tendono verso le politiche attuate in Occidente oppure verso le nuove politiche attuate in Oriente, nei mercati orientali. La seconda questione è l'innovazione o la replica delle strategie di gestione delle risorse umane e la risposta del mercato del lavoro e la flessibilità. Infine la competitività delle aziende sul mercato del lavoro, per capire se le risorse umane possono essere una fonte di vantaggi per le aziende globali. Per affrontare queste quattro questioni abbiamo quindi stilato fatto riferimento a queste radici teoriche. La motivazione alla base della ricerca si basa sul fatto che le trasformazioni che avvengono sul mercato del lavoro cinese hanno conseguenze a livello globale, innanzitutto perché la Cina rappresenta un competitor importante e un global player, ma anche perché le politiche cinesi delle risorse umane in maniera diretta o indiretta hanno un'influenza sulla fornitura di forza lavoro sul mercato mondiale. Qual è il contesto del mercato del lavoro, considerando gli ultimi sviluppi economici, i trend demografici principali, le politiche dell'istruzione? Infine vogliamo concentrare la nostra attenzione sull'evoluzione legislativa e le riforme. Dunque, vediamo com'è improntata la nostra ricerca. Abbiamo delineato il contesto istituzionale, il quadro di riferimento normativo, le norme inerenti al lavoro, il mercato del lavoro, che vedono la presenza di più attori, cioè le agenzie governative e il governo, le aziende e le risorse umane. Le aziende operano attraverso delle specifiche strategie politiche e pratiche inerenti alla gestione delle risorse umane. In Cina il diritto del lavoro, sin dalle prime riforme, dobbiamo fare riferimento alla legge sul diritto del lavoro del 1994 e la legge del 2008 sul contratto di lavoro, e che fa riferimento alle leggi sulle retribuzioni. Per quanto riguarda la legge sul contratto di lavoro, del 2008, rappresenta una pietra miliare diritto del lavoro e simboleggia l'approccio cinese a un mercato del lavoro più regolamentato rispetto al 1994. Infatti la precedente legge non era così dettagliata, per esempio un aggiornamento importante era il requisito dell'avere un contratto di lavoro scritto che non era necessario precedentemente. Inoltre vi è stata una sezione particolare sul lavoro comandato. Prima del 2008 nessuna legge riconosceva questo tipo di lavoro in Cina, benché fosse molto comune. Questo lavoro comandato fa riferimento all'utilizzo dell'agenzia interinale come FESCO, che è una delle principali agenzie che ha una joint venture con Adecco, rispetto al rapporto di lavoro diretto fra datore di lavoro e lavoratore. Quindi questo avrebbe limitato l'utilizzo di questo tipo di contratti, cioè il ricorso ai contratti di lavoro interinale. Ma dopodiché vi è stata una regolamentazione del lavoro attraverso le agenzie interinali. Infatti sono ben 49.000 le agenzie interinali stimate. Per limitare questo tipo di contratti, lo scorso anno c'è stata una modifica, un emendamento apportato alla legge sui contratti del lavoro. Il lavoro comandato deve riferirsi soltanto a un periodo limitato temporaneo di non oltre 6 mesi, e l'emendamento era che questo non faceva riferimento a aziende estere che operavano in Cina, in quanto non sono delle entità legali indipendenti e quindi devono passare attraverso le agenzie proprio per assumere personale cinese in quel tipo di aziende. Oltre a ciò, questo emendamento mette una minima durata del contratto non inferiore ai 2 anni e aggiunge un ulteriore requisito per queste agenzie, prima era c'è stato un aumento rispetto al periodo precedente. Alcune deduzioni riguardo gli emendamenti apportati alla legge sul lavoro, del contratto del lavoro. Bisogna cercano di tutelare meglio i diritti dei lavoratori attraverso delle procedure, una formalizzazione delle procedure contrattuali, la previdenza sociale, politiche di assunzione, l'orario di lavoro, minimi salariali e sanzioni nel caso in cui non ci sia rispetto di queste disposizioni legislative. Il trend è le evidenze che possiamo rilevare sul mercato del lavoro cinese, correlato alla grande mobilità di mercato. E questa è una grande ripercussione sul mercato del lavoro, soprattutto in quelle province che sono molto mobili, e quindi il successo dell'assunzione e della ritenzione dipende dal sistema di appunto riconoscimento. C'è una sorta di scarsità di personale qualificato, soprattutto per posizioni tecniche, perché c'è questo fenomeno del job hopping che è molto frequente in Cina, cioè i lavoratori sono molto più mobili rispetto ai lavoratori dei paesi occidentali, e quindi vi è una mancanza di quadri intermedi e dipendenti di basso grado. Si può parlare di convergenza o divergenza per quanto riguarda la gestione delle risorse umane? Innanzitutto vediamo quali sono i nuovi cambiamenti introdotti nel diritto del lavoro in Cina, che sta cercando di adeguarsi agli standard del lavoro internazionale per creare un mercato più trasparente ed efficiente. In tal modo sta diventando un mercato più eterogeneo e variegato, che attrae la presenza di lavoratori e di anche provenienti da paesi esteri. Tre punti emergono e che dovrebbero essere valutati nel breve e lungo periodo. Innanzitutto, l'investimento sullo sviluppo delle competenze chiave dei lavoratori, la ritenzione rappresenta una questione chiave per le aziende, infine il costo, naturalmente, del costo dell'aumento delle competenze. Bisogna quindi pensare a una ipotesi di esplorativa nell'agenda che consideri i fattori istituzionali e sociali. È evidente che per le aziende che operano in Cina, per aver successo localmente non basta ciò, ma bisogna attuare una politica che consideri le caratteristiche del mercato in particolare. Come ho già detto, vi è una replica delle strategie di gestione delle risorse umane che potrebbero essere una capacità chiave per avere successo sul mercato locale, se c'è una comprensione delle trasformazioni demografiche e istituzionali del mercato cinese. Quali sono quindi le sfide che emergono delle aziende che operano in Cina, che devono essere affrontate da queste aziende? Bisogna quindi considerare i fattori invariabili che dipendono dalla legislazione, in particolare facendo riferimento alla legge sui contratti di lavoro del 2008 e il dividendo demografico che sta diminuendo. E vediamo che ci sono stati dei problemi a causa della politica del figlio unico, del fatto dell'accelerazione dell'invecchiamento della popolazione, quindi ciò bisogna considerare alcune dinamiche nella domanda e offerta del lavoro e gli effetti sulle diverse politiche sul capitale umano e sull'istruzione, che non creano uguaglianza nelle varie province cinesi dal punto di vista dello sviluppo, quindi ci sono disparità fra le varie province con un sottosviluppo nel centro e nella parte occidentale del paese. Per quanto riguarda il capitale umano, è ancora in fase di sviluppo pieno, poiché si spinge il mercato cinese verso la globalizzazione, e questo anche per le tendenze riscontrate a livello legislativo, sia dal punto di vista normativo e delle competenze, per attrarre aziende straniere che possano essere interessate a venire a operare sul mercato cinese e il mercato asiatico con successo. Grazie per la vostra attenzione. Grazie per la chiara presentazione che ci apre nuove prospettive all'interno di un paese così grande e così interessante. Adesso è il terzo speaker, abbiamo Teresina Torre, Università di Genova. Evoluzione della compensazione verso un sistema di compensi personalizzati. Quindi 20 minuti, il tempo di preparazione non è incluso in questi 20, viene concesso un po' di tempo in più. Bene, molte grazie. E, per quanto concerne le ultime riflessioni che Daria Sarti e io abbiamo effettuato mentre redigevamo l'ultima versione di questo paper, appunto in quel periodo sui sistemi di compensazione e la loro evoluzione, in quel periodo dicevo, alcune aziende discutevano con il sindacato e con i suoi lavoratori delle riduzioni salariali come una modalità di contenimento del rischio di licenziamento. Ora, potrebbe sembrare inappropriato sviluppare l'idea di questo paper, perché una prima preoccupazione non è il sistema di ricompensa personalizzata, ma è quello in realtà di garantire un lavoro e una giusta paga. Ma man mano che continuiamo in queste riflessioni, che proponiamo il nostro lavoro, parimenti ci pare che in questo periodo di crisi e di incertezza diventi necessario utilizzare il concetto di reward, di ricompensa e non di, o compenso e non altro, in particolare anche con riferimento a certe condizioni specifiche di un'impresa. E questo sicuramente si basa sul fatto che le condizioni economiche di mantenimento di una produzione industriale in determinata area e migliorarne le condizioni sia sicuramente importante, per noi molto importante. Pertanto questa relazione è, come secondo step, e come seconda affermazione, e intendo sottolineare che altro lavoro andrà fatto in questa direzione. Mi spinge a parlare del punto di partenza. Allora, normalmente il compenso sembra essere l'unico strumento nelle relazioni di lavoro. Mantenere le persone, questo è uno dei compiti più importanti della gestione delle risorse, ma l'efficacia delle politiche retributive è stata discussa ma non ben dimostrata, con soluzioni che evidenziano l'alto costo del lavoro senza però garantire la fidelizzazione del lavoratore. Inoltre è stato fatto un utilizzo di strategie e strumenti di compensation. Si è considerata per esempio la diverse modalità di lavoro che richiedono condizioni di lavoro migliori e poi l'organizzazione della forza lavoro all'interno di un'organizzazione. E qui va considerata le differenze fra individuali per mettere a punto un sistema di compensi che possa essere idoneo a soddisfare i bisogni dell'azienda e del lavoratore. Quindi le aziende hanno iniziato a proporre iniziative, a sviluppare esperienze che vadano in questa direzione. Il punto di partenza è che la letteratura internazionale e la pratica gestionale hanno utilizzato l'espressione total reward, che si presenta come un compenso che in base alla di gestire le dinamiche e le motivazioni, consentendo di partecipare in modo attivo e utile nel processo produttivo. Quindi la total reward è diventata un elemento di grande interesse nello scenario internazionale, perché ha il potenziale di migliorare la consapevolezza da parte delle organizzazioni dell'importanza di prendere in esame molte componenti e le relazioni fra lavoratori e aziende, e inoltre perché può in qualche modo aiutare l'organizzazione a perseguire i suoi compiti tradizionali. Si osserva però che questa tematica è stata sviluppata più dal mondo, diciamo, dei professionisti che degli accademici, e poi c'era anche disaccordo su una definizione condivisa del suo costrutto e delle sue componenti principali, Nel frattempo si nota anche una carenza di misure e strumenti validati che possano essere utili. A questo punto il nostro obiettivo, e l'obiettivo della nostra ricerca, non solo di questo paper, è di gettare una luce sul sistema di Total Reward, che come sistema, appunto, l'enfasi va a questo tipo di approccio, debba riuscire a dare un'interpretazione di un modello operativo per sviluppare il concetto TRS all'interno di un contesto empirico e inoltre riuscire a collegare l'idea di total reward con gli orizzonti a lungo e medio termine e le prospettive strategiche delle organizzazioni e delle aree risorse umane all'interno di esse. Quindi il sistema di remunerativo è stato riesaminato introducendo alcuni concetti della Total Reward System da un punto di vista della letteratura, attraverso i paper più importanti che abbiamo riesaminato, proponendo una definizione di questo sistema con due caratteristiche particolari. L'una è un concetto multidimensionale e l'altra è una caratteristica multilivello. La nostra considerazione e riflessione si basa su quanto enunciato da Barnard, che parla dell'economia degli incentivi, sottolineando che gli incentivi per un'organizzazione sono sia materiali che immateriali, suggerendo che quelli materiali sono ancora più efficaci nel supportare la gestione, il management. Questo è importante, infatti possiamo vedere che il ruolo degli incentivi è importante nella relazione che si crea fra lavoratori e organizzazioni. Infatti Barnard sottolinea che l'efficienza è uno scambio soddisfacente, quindi è un'organizzazione che fa cose materiali, fa delle cose materiali il suo incentivo principale, non sarà in grado di offrire questo tipo di incentivi se non è in grado di garantirlo. Altri autori sottolineano che oltre al denaro vi è molto di più che un lavoratore considera importante. Qui ci sono riferimenti, in particolare quello di Beer, che ha parlato della filosofia e in tempi più recenti Lawler, che ha sottolineato che vi sono una serie di reward diversi e essenziale è l'alternativa di standardizzare i pacchetti di compensatori e metodi di erogazione che da devolvere ai lavoratori, e quindi il concetto di total reward è comunque un argomento complesso con molte definizioni in letteratura, e qui evidenziamo alcuni dei concetti più utilizzati e menzionati in ogni O'Neill, per esempio, dice che la Total World abbraccia tutti i valori dei lavoratori e nelle relazioni di lavoro. Chenin Nish dice che la Total World è inerente alla posizione che un'organizzazione assume per attrarre, mantenere, motivare i lavoratori, quindi identificano questo argomento come totalmente coincidente con la gestione delle risorse umane. Poi Thompson parla del fatto che il Total Reward Scheme dimostra che i datori di lavoro prendono in considerazione i bisogni dei singoli impiegati, dei dipendenti, e che è preparato a essere flessibile nel rispondere a tali bisogni. Quindi è un concetto ampio e non chiaramente definito. Questo è uno degli aspetti che abbiamo considerato, e quindi abbiamo sviluppato alcune idee per la costruzione di un modello, partendo da una serie di considerazioni, sviluppando gli aspetti teorici e considerando la Total Reward come concetto multidimensionale, mettendo in evidenza pertanto un numero considerevole di strumenti di remunerazione che hanno un valore per i dipendenti, che possono rispondere a bisogni diversi in modo flessibile, e poi favorire un sistema strategico, una prospettiva di sistema strategico, appunto, quindi forse olistico, rappresentando pertanto una buona possibilità di comprendere come le aziende possano regolamentare il loro rapporto con i lavoratori. Molti studiosi e molti autori, molti professionisti anche, hanno proposto un elenco di componenti della Total Reward che possono essere utilizzati, come quella di O'Neill, che considera queste quattro dimensioni: retribuzione, benefici, apprendimento, sviluppo, ambiente di lavoro. Ovviamente ci sono altri modelli che potrebbero essere considerati, ma il limite reale è che si trovano elenchi di strumenti che possono essere considerati, presi in esame, ma sembra comunque che manchi una costruzione all'interno della quale ogni singolo elemento possa essere sviluppato in modo organizzato. Quindi abbiamo considerato un modello organizzato su quattro dimensioni. La prima è l'ambiente di lavoro, che è appunto la caratteristica del posto di lavoro visto come luogo fisico, ma anche come ambiente professionale, e poi l'ambiente aziendale con quella serie di comportamenti che distinguono praticamente regola i rapporti fra l'azienda e l'ambiente. All'interno di questo consideriamo per esempio tutte le scelte etiche, gli orientamenti culturali. Un terzo elemento è quello classico della work-life balance, come dimensione integrativa del sistema di ricompensa e remunerazione. E poi l'ultimo, quello che comprende appunto i salari fissi, variabili, benefit, eccetera. Ora, la dimensione che riteniamo più interessante è la seguente: questa costruzione può essere considerata come dimensione multilivello. Tutto si sviluppa dall'idea di una componente personalizzata per ogni job position o individuo che va verso una dimensione collettiva ed è inerente a quegli aspetti che possono essere proposti per tutta la popolazione. La difficoltà consiste nel considerare la prospettiva globale, la declinazione di ogni singolo aspetto che può essere inserita all'interno di questo sistema per preservare l'equità dell'organizzazione oltre a rispondere ai bisogni individuali. Come dicevo inizialmente, questo è esclusivamente un passo della nostra ricerca, ci sono molte domande alle quali rispondere. Una delle posizioni considera il Total Reward System in modo prescrittivo, in prospettiva prescrittiva, e quindi la domanda centrale è: sono quelle che riuscite a vedere qui, cioè la prima è: qual è il mix migliore per gli strumenti di Total Reward, e se c'è un modo migliore di rispondere ai o di soddisfare i singoli attraverso un sistema di, appunto, reward. Secondo noi la Total Reward è la sua reale innovazione e che si introduce un orientamento strategico che è l'effetto di un processo decisionale che vede la Reward come una prospettiva a lungo termine e nell'utilizzare questa prospettiva il Rewarding People è uno degli aspetti più importanti delle risorse umane, dell'area risorse umane. Quindi è importante capire come pianificare un Total Reward System per utilizzare il massimo grado di personalizzazione, sottolineando sempre che questo è il cuore del sistema e considerandone le quattro dimensioni importanti. E se vi sia una relazione con strumenti a lungo termine e le professional skill di ciascuno, chiedendosi poi come mantenere il sistema flessibile all'interno di uno scenario che è sempre più breve, poi come è possibile gestire un sistema di questo tipo che ci si orienta verso un quadro temporale più lungo. Importante quindi è trovare un modello operativo che identifichi misure ed elementi che consentano di capire esattamente cosa poter fare, se questo può essere anche un modo italiano. Potrebbe essere anche una modalità italiana di sviluppare l'aspetto delle risorse umane. È stato infatti sviluppato negli Stati Uniti e nel Regno Unito, sicuramente però ci riserva molte nuove opportunità. Grazie per l'attenzione. Abbiamo riguadagnato terreno e siamo praticamente nuovamente in orario. I discussion sono qui. Colonna e Masino, non avete titoli, ma potete discutere di questi paper. Prima di iniziare, mi scuso per la voce, mi sono chiesta prima di venire, appunto, vado o non vado, e ha fatto la cosa giusta. Allora, in primo luogo desidero esprimere il mio apprezzamento a tutti gli organizzatori, in particolare agli accademici, agli amministratori, a tutti coloro che hanno contribuito all'eccellente organizzazione di questo evento, in termini tecnici anche di contenuto e di sostanza. Marco Biagi considererebbe questo l'approccio olistico al mercato del lavoro, dal shop floor agli alti, più alti livelli, da un punto di vista delle teorie organizzative, e, come si è detto, anche al mattino. Originariamente quattro erano i paper, adesso stiamo considerandone tre, ciascuno dei quali sono una eccellente dimostrazione di questo spirito, non soltanto della la composition di questo tavola rotonda, ma anche le tematiche di ogni paper che trattano le organizzazioni, gli esseri umani coinvolti per riuscire a rispondere agli obiettivi di un'organizzazione. Ognuno di questi paper esamina la materia secondo modalità interdisciplinari, coprendo aspetti delle teorie organizzative, economiche, a volte in modo esplicito, a volte invece in modo un po' più istintivo. E qui mi scuso con gli autori, perché davvero è quasi impossibile essere o andare in profondità in questi solo 20 minuti, ma forse è vero che gli argomenti vanno forse trattati in modo un po' arbitrario a volte. Allora si andrebbe subito a ricercare le caratteristiche comuni ai vari papers, questo farebbe un commentatore, cercando di prestare attenzione alle regole della gestione delle risorse umane. Una caratteristica comune, per esempio, secondo me, è che non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Questo perché, come dice il primo paper, in modo esplicito, ma anche il secondo, in realtà così è. E poi nel mio passato di accademica ho notato il confronto costante fra la mia identità e il mondo occidentale moderno di oggi. La prima questione è stata affrontata nel primo paper, le frontiere delle legge sul lavoro, che ha esaminato la relazione di mercato paga, in realtà pone una serie di questioni che sono davvero delle chicche per i giuslavoristi, cercando di delimitare confini fra le frontiere e i rapporti di lavoro, le frontiere che esistono, e naturalmente le conseguenze qualitative di queste frontiere. 100 anni fa la realtà poteva forse essere andata oltre le forme e le espressioni. Questo era il messaggio del paper, ma si potrebbe dire che solamente un giudice competente per decidere se una relazione faccia parte di questa o quella categoria. Non ci sono statuti atti del Parlamento, decreti, normative che possano regolamentare situazioni astratte e quindi regolamentare queste questioni. per esempio le guardie di sicurezza per gli agenti di commercio classificati nelle categorie dei contractor, anche se a volte effettivamente esiste una relazione di lavoro, quindi ogni intervento in questo senso è molto arduo. E qui arriva un punto che mi piace molto: il controllo del rischio e gli interessi, secondo me ciò che manca, non tanto dalle relazioni ma nella discussione fin qui avuta, è che per l'economia della legge l'aspetto del rischio, che diventa un elemento che accompagna un'attività che deve essere proporzionale al controllo e all'interesse, e naturalmente il controllo deve essere poi proporzionale all'interesse. Stiamo parlando della questione del controllo, quindi in ogni contratto vi è rischio, e quindi il non adempimento del contratto, il rischio di modifica delle relazioni, della modifica dei mercati. E quando si parla di equità di un contratto, questo deve includere anche l'allocazione equa dei rischi. Una considerazione equa dei rischi è menzionata da uno degli autori. Di chi è? Chi è preposto a ciò? Cioè non chiedersi solo di chi è l'interesse o di chi è il rischio in una determinata relazione di lavoro. Quindi risk without control is... il rischio e il controllo implicano anche un'esposizione come quella che si corre, in cui si incorre quando si gioca, quando si ci si mette in relazione di gioco, e quindi a volte è importante la flessibilizzazione delle relazioni di lavoro. Pertanto il rischio va dato al datore di lavoro senza delegare controllo. E questo potrebbe ridurre il livello di gestione. Dunque penso che la legge deve prestare attenzione alla relazione fra controllo, rischio e interessi. Il rischio ha un prezzo nel business, non soltanto a livello finanziario. Per esempio le quote dei contratti sono più elevate, in quanto operatore del mercato deve affrontare diversi rischi, rischi di mercato e altri, quindi il pagamento del contratto è più elevato. Dal mio punto di vista, per questo tipo di ragione, il rischio che è fatto slittare sul lavoratore non dovrebbe essere più elevato rispetto a quanto viene pagato. Ma che cosa si paga nell'occupazione? E poi arriviamo all'altro paper. Alcuni rischi oppure incidenti potrebbero essere risarciti a favore del lavoratore. Ciò, che cosa veramente si paga nell'occupazione? Nell'ultima relazione vediamo che abbiamo una concezione che va al di là del singolo pagamento, cioè il sistema del riconoscimento è superiore, più elevato, e tutti saranno d'accordo nel dirlo. Ci sono questi quattro elementi che garantiscono l'attuale ambiente di lavoro, la conciliazione di vita e lavoro e i risarcimenti equi, così come stabilito, dando vari gradi di rilevanza ai vari temi, ma tuttavia per me nello sviluppare queste varie idee, questi quattro elementi svaniscono, e anche se alla fine si parla della fattibilità, questo richiede maggiore spiegazione, luce. Questo ci riporta a una vecchia verità, ulteriore vecchia verità, cioè che l'uomo non vive di solo pane. Quindi per il lavoratore, non soltanto per lui, non vale solo lo stipendio, il denaro, ma anche il fatto di lavorare in un ambiente di lavoro soddisfacente, condizioni di lavoro adeguate, che siano efficaci, adeguate per il datore di lavoro e il lavoratore. Quindi ci saranno due o tre elementi che devono emergere qui. Innanzitutto è vero che non è soltanto importante il salario, ma al di là che sia superiore lo stipendio ai requisiti minimi di vita, di sopravvivenza. Ovviamente il minimo deve essere salariale garantito, deve essere quello del permettere la sopravvivenza del lavoratore, adeguato alla categoria del lavoratore, ma ci deve essere sempre un minimo garantito, un minimo salariale, anche se si parla di flessibilità e di un sistema di retribuzione flessibile. Ovviamente dovrebbe dipendere dalla performance, dalle prestazioni, dall'anzianità, dai risultati raggiunti, dalle competenze, eccetera. Tuttavia deve rimanere chiaro che il sistema deve superare tutta una serie di difficoltà e andare al di là di queste difficoltà. Vorrei fare riguardo alcuni commenti. Come già detto prima, questo sistema di riconoscimento deve essere collegato al livello del controllo del lavoratore, perché in alcuni casi possiamo vedere che è indipendente dal controllo della prestazione del lavoratore. La cosa ancora peggiore è che talvolta ciò obbliga il lavoratore a rinunciare a diritti fondamentali, diritto al riposo, diritto al riposo settimanale o incentivi per prestazioni maggiori. Ancora il bias, i pregiudizi di genere, anche questo potrebbe essere una lacuna del sistema. Quando andiamo a guardare il sistema degli incentivi, delle condizioni, i requisiti di base, si ha la sensazione che ci possa essere un pregiudizio nei confronti delle donne, perché le donne devono pensare anche agli obblighi familiari, anche se lo scopo, l'obiettivo di conciliazione fra impegni di vita e di lavoro per me non era tanto evidente nel sistema. E questo tenderebbe a spezzare il legame con la vecchia categorizzazione fra il buon fare la differenza fra un buon lavoratore e una buona madre. Tutti ovviamente sul posto di lavoro deve essere un buon lavoratore per avere diritto a quel tipo di riconoscimento. Parlando del pregiudizio di genere, fra l'altro, io ho un altro problema, ossia non è stato parlato tuttavia nella relazione, quindi la trasparenza che viene sottolineata nel sistema significherebbe la disponibilità di informazioni sui salari e riconoscimenti personali individuali. Per il momento tutto ciò è coperto dal segreto, dalla riservatezza, e quindi i lavoratori non possono dire agli altri quanto guadagnano, qual è il loro salario, e c'è una mancanza di trasparenza. Come si può risolvere questo problema? Ma questo rappresenta ancora una barriera sulla trasparenza, l'equità e pari opportunità applicata al sistema salariale. Questa era un po' la serie di commenti da fare riguardo alla questione del pregiudizio di genere. Un'ulteriore osservazione è la seguente, ossia che sì, è vero, abbiamo altre esigenze al di là del pane e dal soddisfare i bisogni primari, non basta lavorare per essere pagati. Nella piramide troviamo altri step che sono importanti, che precedono gli interessi del singolo, del salario nudo e crudo, e questo ha a che fare con il tipo di organizzazione del lavoro, e questo forse non mancava dalla relazione. Se io fossi un insegnante e dovessi analizzare, valutare la relazione del relatore o della relatrice, se dovessi fare l'insegnante in classe e dovessi valutare questo PEPA, soprattutto se devo parlare del PEPA ai gli studenti e agli insegnanti, per questo avrebbe un valore, ma per il lavoro non ha tanto importanza. Ovviamente se se il proprio lavoro aumenta il prestigio e la fama dell'organizzazione, questo dovrebbe essere ovviamente avere un corrispettivo. Ovviamente le organizzazioni religiose, militari eccetera hanno mission, obiettivi, organizzazioni diverse, e il sistema di riconoscimento dovrebbe essere adeguato di conseguenza. E questo solleva altre due questioni, secondo me. Non vi è menzione del limite del sistema di riconoscimento. Io qui sto seguendo il mio schema, che non vi sto mostrando perché è in parte in ungherese. Il sistema di riconoscimento, di ricompensa, sia a livello salariale e anche dal punto di vista di compensi morali, ha dei limiti. Se tu mi paghi 1 milione di euro al mese, non posso nuotare per battere un record mondiale necessariamente. Questo è un limite, ad esempio. Numero due, vi sono alcuni limiti fisici naturali di altra natura e altri tipi di incentivi oppure riconoscimenti. Quando ero giovane nel sistema comunista, ritorno al mio passato, quando ero molto giovane avevo scritto una relazione sul riconoscimento morale, ricompensa morale, perché da allora non c'era un forte riconoscimento salariale ma soprattutto morale, come per esempio la stretta di mano, la pacca sulla spalla, che aveva un valore allora. E questo ho fatto varie ricerche su questo argomento, e uno dei risultati era che sì, che questo tipo di incentivo aveva un effetto positivo o meno, ma soltanto nella misura in cui fosse parte del sistema del riconoscimento, sistema di riconoscimento, anche tenendo conto dei bisogni primari, altrimenti l'effetto dell'incentivo verrebbe a mancare. Quindi non basta il riconoscimento morale. Un altro aspetto è quello dell'istruzione e della selezione. Io penso che sia molto importante rendersi conto, in un periodo di lungo termine, l'importanza che ha l'istruzione in generale e la specializzazione in particolare per quanto riguarda la gestione delle risorse umane. In generale, per istruzione intendo fissare dei valori positivi, efficaci nella formazione professionale, stabilendo degli standard e dei valori adeguati, giusti. Questo rappresenterebbe una garanzia un'assicurazione per permettere il buon funzionamento di un sistema efficace di riconoscimento. Facendo riferimento al paper cinese, sembra che questo paese si sia reso conto dell'importanza dell'istruzione e apparentemente vi è l'intenzione di porre enfasi sull'istruzione, ma d'altra parte vediamo che la Cina non è più un paese in transizione rispetto ad altre economie in transizione nel senso dei paesi dell'est europeo, tuttavia lì vi è una transizione in atto, anche se in estremi. Questi estremi assumono una forma diversa, caratteristici dei paesi dell'est europei nel 90, in certa misura ovviamente, cioè questa importanza sottolineata della gestione delle risorse umane, del ruolo delle agenzie, allora forse non esisteva perché questo viene dall'economia di mercato, dove abbiamo dovuto esagerare da un certo punto di vista. Questo mi fa pensare al proliferare dei sindacati nei vari paesi come in Ungheria, ma anche in altri paesi dell'Europa orientale negli anni 90. E ci sono degli estremi o ancora delle incertezze che emergono in questo paper, e per me è un paper iper ottimista, ma è vero che senza l'ottimismo non andiamo da nessuna parte. Poi per quanto riguarda l'istruzione, io penso che l'intenzione è giusta, ma nei fatti è molto bassa, perché dalla relazione impariamo che meno dell'1% del PIL è destinato all'istruzione, ma sicuramente una percentuale molto più elevata rispetto ad alcuni anni fa. Quindi in paesi in via di sviluppo o in transizione è sempre importante vedere il progresso in atto. Inoltre, per quanto riguarda l'istruzione, parlando di istruzione, penso che vi sia una forte responsabilità da parte dello Stato, delle agenzie statali, come ne parlava l'ultima relazione. Un'ultima questione, quella dei sindacati. In ognuna delle relazioni, non tanto la prima, ma la seconda e la terza, da lì emerge che i sindacati non sono stati dimenticati, benché vi sia un sistema di riconoscimento specifico individuale in Cina, è la politica ufficiale che ha riconosciuto l'importanza e il peso dei sindacati. E lì vi è stata la nascita del più grande sindacato nell'ex Cina comunista. Il grosso sindacato però si basa su alcuni elementi fondamentali di libertà o su le eredità, i retaggi del passato per poter funzionare. Tuttavia, per poter difendere tale situazione che potenzialmente potrebbe essere valida, ancora una volta bisogna riportare nel quadro un altro elemento, e bisogna quindi riconoscere che in tempi di grande trasformazione quello che chiamiamo il corporativismo evolutivo transizionale, Jankova, questa relatrice di cui ne ha parlato, appunto, ha fatto dell'esperienza nei paesi est europei. Questa mancanza di chiarezza e le soluzioni non occidentali in transizione hanno sicuramente contribuito a costituire questo tipo di sistema di relazioni industriali. E l'ultimo punto con cui vorrei lasciarvi è il seguente: potremmo quindi vedere che vengono fuori delle grandi idee di lungo periodo conformità allo spirito di Marco, all'eredità che ci ha lasciato Marco. Quindi questi elementi devono essere perseguiti nel lungo periodo in maniera visionistica, ambiziosa, cercando di fare degli sforzi visionari, anche se oggi sembrano essere esagerati e iperottimistici, ma bisogna guardare sempre al di là, a fare un passo al di là nel futuro in maniera lungimirante, nello spirito che ci ha insegnato, che ci ha lasciato Marco Biagi. Grazie per aver commentato le varie relazioni, per aver fatto i vari nessi, i vari collegamenti, e grazie per i nuovi elementi analitici che sono emersi. È un lavoro molto difficile. A questo punto avrei l'ultimo discussant, Giovanni Masino della Università di Ferrara, quindi non lontano da qui. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare la Fondazione Biagi e gli organizzatori per avermi invitato. Per me è un onore e un grande piacere. Sono grato, ma il compito che mi è stato dato è molto arduo. Tutte le relazioni sono interessantissime, ma molto diverse, differenti dal punto di vista di argomenti, approcci e campi e discipline. E quindi ho cercato di fare quanto segue per far riferimento al titolo della sessione, cioè le driving forces, le forze trainanti nelle relazioni sindacali in fase di cambiamento. E quindi ho riflettuto che cosa ci possono dare queste relazioni, questi PEPA, in che modo ci possono aiutare a individuare quelle che possono essere le forze trainanti verso delle nuove relazioni industriali, quali possono essere queste nuove forze trainanti alla base delle nuove relazioni industriali in fase evolutiva. E quindi cercherò di essere chiaro a riguardo. Io mi occupo di ricerca e mi occupo di teorie, di elaborazione di teorie, e insegno appunto il diritto del lavoro. La mia chiave interpretativa è soprattutto sulle questioni dell'organizzativa e di gestione delle risorse umane. Per quanto riguarda queste varie relazioni, vorrei darvi questi spunti di riflessione. La relazione di Alice Belcher si concentra sul legame fra direzione e lavoro, nel diritto del lavoro e nella pratica. Lei ha descritto molto chiaramente come si tratta di un vecchio, antico dibattito che va avanti dallo scorso secolo. Ma tutto ciò ha bisogno di una chiave diversa, che anche assume una valenza moderna. In quanto esperto delle organizzazioni non potrei parlare di questo paper totalmente positiva, ma quello che mi ha colpito è il confronto che ha fatto fra la forma e la sostanza. La cosa che ho trovato interessante e stimolante è che ho trovato un parallelo interessante fra il diritto del lavoro e le discipline della gestione delle risorse umane. Potrebbe sembrare che la mia disciplina di cui mi occupo, cioè l'organizzazione e la gestione delle organizzazioni, sono caratterizzate da un qualcosa che potremmo chiamare dicotomia fra sostanza e forma, o ancora come dicotomia fra retorica e pratica, la retorica della misurazione, del management, di come esso si descrive, il discorso pubblico sul management, compreso il discorso accademico da una parte, e la pratica routine quotidiana delle pratiche routinarie quotidiane della gestione aziendale dall'altra parte. E questo è importante. Studiare il management non significa soltanto studiare le pratiche, ma anche il discorso, il linguaggio sulle pratiche. Sarebbe impossibile capire l'uno senza capire l'altro aspetto. Secondo me, ovviamente la mia è un'opinione personale, vi è una lacuna, un divario vasto, una distanza significativa fra la teoria e la pratica attualmente. Non penso che questo divario si stia restringendo, anzi si sta ancora più ampliando, un divario che di per sé è interessante, potrebbe essere di per sé una questione di ricerca, perché così se è così, perché se ammesso che esista, è interessante ma anche preoccupante allo stesso tempo, perché è difficile parlare, discutere riguardo il management, l'organizzazione, l'occupazione, le relazioni industriali senza capire le difficoltà e i risvolti di questo divario, di questo gap. Quindi dal mio punto di vista personale, la relazione di Belcher mi ha aiutato a focalizzarmi sul fatto che se l'evoluzione del diritto è una forza trainante nelle relazioni industriali che cambiano, ciò dipende anche dal discorso comune sul management e sui datori di lavoro e i lavoratori, fra il management, la direzione e il lavoro. Questa è una questione controversa ed è cruciale dunque affrontare questo argomento in maniera chiara e onesta se vogliamo affrontare l'argomento. E adesso un paio di commenti riguardo alla relazione di Croucher, che purtroppo non è potuto intervenire. È stato, penso, un paper molto interessante che ci dà una prospettiva diversa sullo stesso argomento. Egli fa riferimento nella sua relazione all'occupazione, al lavoro nel settore pubblico e soprattutto alle pratiche di outsourcing, di subappalto. È una ricerca empirica, ci sono dati, analisi, cifre, percentuali, quindi fatti, e le conclusioni sono molto interessanti, molto illuminanti e anche preoccupanti allo stesso tempo, perché praticamente ci mostra delle pietre miliari della saggezza manageriale che è completamente fallata. I risultati attesi di efficacia delle pratiche di subappalto nel settore pubblico praticamente non sono reali, non dipendono da paese a paese, se si è un paese neoliberale oppure no. Questo potrebbe essere esteso come discorso anche, queste conclusioni potrebbero valere anche per altri aspetti, cioè l'idea di tradurre queste pratiche dal settore aziendale a quello pubblico, cioè delle pratiche di procurement, di acquisti pubblici, sono sbagliati, cioè i risultati che ci si aspetta da questo tipo di pratica non avvengono, i dati non lo dimostrano, cioè le aspettative restano deluse. Croucher sottolinea alcune conseguenze negative, cioè lo svuotamento del settore pubblico dal punto di vista delle competenze, dei talenti, delle qualità, delle risorse umane. Croucher provides a couple of explanations, and one of them... E una delle spiegazioni che sottolinea maggiormente è la seguente, e qui cito: perché dati i benefici misti e iniqui, perché dovrebbe avvenire questa pratica di subappalto pubblico? Soprattutto questi meccanismi mostrano delle deficienze. Ciò rappresenta il trionfo dell'ideologia sull'esperienza. Fine della citazione. Ovviamente si tratta di un'affermazione difficile da provare, tuttavia ciò spiega molto, ci dà una chiave di lettura di quello che osserviamo nel settore pubblico dal punto di vista degli appalti pubblici e non soltanto nel settore pubblico. Quindi la mia interpretazione sì che le due relazioni di Croucher e Belcher ci aiutano a analizzare la distanza critica fra l'ideologia e l'esperienza, fra la pratica e la teoria. Ancora una volta, se non consideriamo ciò come una forza trainante possibile per cercare di capire quali sono le forze alla base delle relazioni industriali, si perderebbero dei tasselli importanti di questo mosaico. Pontigia e Torre ci hanno dato una diversa angolazione, temi che in realtà non sono poi totalmente diverse. Da una parte il sistema di riconoscimento nelle aziende, bisogna superare una visione miope, limitata del concetto e della differenza fra uomo e lavoro. La mia opinione è che questo riguarda la stragrande maggioranza dei sistemi di retribuzione, i sistemi retributivi, e come sottolineato da Torre, ecco che ci sono nuovi modelli, nuove idee, nuove pratiche che emergono, così come viene proposto nella relazione, sotto l'etichetta del sistema retributivo generale, orientato a una visione più ampia e vasta della retribuzione, del riconoscimento. E poi c'è una concezione più realistica dell'uomo nel contesto lavorativo, quindi il modello che viene proposto, che emerge, è una mappa interessante di come questo sistema dovrebbe essere, apparire. Si tratta di argomenti, idee molto promettenti, spunti che potrebbero avere un impatto sulle relazioni industriali del futuro e da molti versi. Torre ci aiuta a focalizzarci sul fatto che una delle driving forces nel cambiare le relazioni del lavoro è, o dovrebbe essere, una migliore comprensione e una considerazione più adeguata dell'essere umano nell'ambiente lavorativo. Ovviamente è un aspetto interessante ma molto trascurato, soprattutto nell'ambito commerciale, aziendale. Vorrei sottolineare il fatto che il sistema retributivo, per quanto sia semplice o complesso, non dovrebbe mai dimenticare una questione fondamentale dal mio punto di vista, ossia, e quindi cito Torre per spiegarla meglio questa cosa, nell'ultima parte della relazione, della presentazione, lei pone una domanda importante: qual è il mix migliore di retribuzione? Esiste uno strumento ideale, un mix ideale? Ma migliore per chi, bisognerebbe chiedersi? Migliore per l'azienda, per il lavoratore, per gli azionisti, per il mercato azionistico della borsa, per gli analisti? Potrei andare avanti parlando di tutti i vari stakeholder. Quindi la questione del meglio per chi, dello scopo, non soltanto il mezzo, ma anche gli obiettivi di qualsiasi sistema retributivo, del modo in cui gestiamo le relazioni industriali, dovrebbe essere la base del discorso sulla analisi delle relazioni industriali e dei rapporti fra lavoro e management. E poi, per quanto riguarda il mercato cinese e su come si è evoluto negli ultimi decenni, ovviamente si parla di vari fattori demografici e nuove legislative, sono molto interessanti. Si tratta di una storia molto affascinante, un caso studio molto affascinante, abbiamo molto da imparare da questa analisi, soprattutto per il futuro. Dal mio punto di vista, e ne abbiamo già sentito parlare prima, la cosa più interessante riguardo a questa relazione è il ruolo svolto dall'istruzione, e vedere come il governo cinese ha investito moltissimo sul sistema dell'istruzione, che influenza non soltanto lo sviluppo economico ma anche, secondo me, lo sviluppo della condizione umana nel paese, in quel paese. Ed infine è molto simile a quello che accade all'interno delle organizzazioni, dove l'istruzione è importante non soltanto per sviluppare il business, ma anche per lo sviluppo delle condizioni umane nell'ambiente di lavoro. Pontigia e collaboratori hanno capito l'importanza dell'evoluzione dell'istruzione e hanno presentato un'altra driving force nelle relazioni industriali che cambiano, almeno dovrebbe essere una forza trainante in tali relazioni industriali in fase di cambiamento, e questo è correlato al lavoro di di torre, quando vediamo la capacità di progettare appunto dei sistemi retributivi personalizzati, questo potrebbe essere un elemento chiave innovativo nel sistema generale, dove l'istruzione rappresenta un elemento chiave alla base di questo sistema personalizzato di riconoscimento di retribuzione. Devo dire che io non sono molto ottimista a riguardo, infatti se una istruzione personalizzata a più livelli, a livello aziendale ma non soltanto a livello aziendale, diventa sempre più un'eccezione piuttosto che la regola. Mi sembra, naturalmente nessuno metterebbe in discussione l'importanza dell'istruzione, assolutamente no, ma talvolta dimentichiamo che non è soltanto una questione di quantità ma anche di qualità. La personalizzazione è un elemento cruciale della qualità dell'istruzione. Inoltre ritengo che spesso l'istruzione, le politiche dell'istruzione sono utilizzate nelle aziende, ma non solo, per la stragrande maggioranza delle persone, dei dipendenti, un po' come uno strumento per standardizzare e controllare, piuttosto come uno strumento di sviluppo umano e per l'affermazione dell'individuo. E qui io avrei delle ricerche che sottendono questa mia affermazione, e quindi è una mia amica, quindi posso citarla, posso anche prenderla un po' in giro, me lo permetto, parlo di Teresina Torre. Non soltanto le aziende considerano le risorse umane come principale asset oggi, io ho molti dubbi però a riguardo che sia veramente così, veramente tanti dubbi che nutro, e penso che il nostro dovere è di esercitare il dubbio, di instillare il dubbio per analizzare questa forte affermazione, un'affermazione così forte attraverso dati, fatti, prove. Il fatto che vi sia questa affermazione così forte, che sia così comune, perché un'affermazione comune, molto comune, non fa sì che questa acquisti validità, veridicità. Una delle cose più interessanti che un ricercatore potrebbe fare è analizzare ciò che diamo per scontato, perché talvolta non è così, non corrisponde alla realtà dei fatti, alla verità. Io penso che uno degli elementi più interessanti del caso cinese, per il futuro prossimo bisogna capire, vedere se sono in grado di immaginare una istruzione per la forza lavoro diversa rispetto a quanto noi abbiamo fatto in Occidente. Una delle politiche del lavoro era chiamata Go West, andare verso l'Occidente. Non penso che una politica pro Occidente applicata all'istruzione sia una politica vincente per la Cina, ma questo è una cosa che resta da vedere. Per concludere, al di là delle risposte fatte chiuse, io avrei delle domande che si aggiungono alle domande riguardo l'analisi di questo tema, riguardante l'analisi delle forze trainanti per le relazioni industriali che cambiano. Che cosa potremmo auspicare? Innanzitutto considerare la dialettica, la distanza esistente fra il discorso e la pratica, fra l'ideologia e l'esperienza, come ha detto la chiamata Croucher. In secondo luogo dovremmo avere una visione più multidisciplinare, ampia, dell'individuo, dell'essere umano nell'ambiente di lavoro, un approccio multidisciplinare dunque. In terzo luogo attuare e disegnare delle nuove politiche e pratiche dell'istruzione. Non bisogna pensare soltanto agli strumenti ma anche all'obiettivo, alla visione di lungo periodo, e questo è stato spesso sottolineato nelle varie presentazioni. Questo è quanto da parte mia, vi ringrazio per la vostra attenzione. Yes, thank you. Well, indeed, quoting the driving forces. Grazie per aver appunto parlato delle forze trainanti nell'ultima parte della relazione, della discussione, perché ci fa comprendere come dovremmo vedere, reagire appunto a queste forze trainanti, e quindi andrebbero analizzate ancor più in dettaglio. Importante naturalmente è come noi le vediamo, come le consideriamo. Adesso sono le 12:40, abbiamo ancora un po' di tempo per una moderata discussione. Vedo che Manfred si sta presentando per fare qualche considerazione, un amico di lunga data che partecipa a queste conversazioni, a queste discussioni oramai da lungo tempo. Hai la parola. Grazie Tiziano, vorrei tornare alla lecture provocatoria di Riccardo, che però non vedo, peccato. Io sono d'accordo con lui, nel senso che ciò di cui abbiamo bisogno è una sorta di aggiornamento di quelli che sono gli schemi, i modelli protettivi di tutela. È chiaro che le forze trainanti si modificano nel tempo ed è difficilissimo sviluppare una teoria coerente su come questi costrutti, diciamo, di tutela dovrebbero essere organizzati. Nel contempo bisogna riflettere più approfonditamente su un cambiamento paradigmatico all'interno delle normative. Credo che non riusciremo in futuro ad avere successo con regolamentazioni sostanziali, perché più regolamentiamo, meno riusciamo a gestire il cambiamento, no? E credo che questo sia visibile anche all'interno dell'Unione Europea, dove stiamo cercando di introdurre una normativa sulla tutela dei dati, ma scordiamocela, perché nel momento in cui sarà disponibile la tecnologia sarà cambiata, tutto sarà diverso, quindi il mio suggerimento è che ciò di cui abbiamo bisogno è meno, una minor proceduralizzazione, quindi meno procedure. Mentre dico questo, sottolineo anche che ciò deve essere correlato a una maggior collettivizzazione, liberandoci pertanto di questi concetti, cercando di avere delle entità collettive, attori collettivi che esprimano la voce dei lavoratori e garantiscano nel contempo che le aziende non si concentrino semplicemente sul valore per gli azionisti, ma per tutti gli stakeholder coinvolti nel processo, in modo da avere delle strutture che possano aiutarci all'interno di uno scenario che cambia, quindi facendo evolvere tutte le possibilità di tutela per i lavoratori. E qui vengo a un ultimo disperato tentativo che d'altro canto però si apre verso la speranza. Qualche settimana fa abbiamo tentato di fare qualcosa di questo tipo nel deserto sociale del sud degli Stati Uniti, nel Tennessee, Chattanooga. La Volkswagen ha deciso di sviluppare appunto una cosa del genere, che però è fallita alla luce delle attività terrificanti dei politici statunitensi. E quindi questa è la storia, la parte triste della storia. La parte buona è che la Volkswagen ha deciso di non investire mai più in un ambiente talmente ostile come quello americano, e pertanto gli americani non riceveranno più investimenti di aziende tedesche. Investiamo nel nord almeno, dove le cose vanno un po' meglio, questo è il messaggio. Penso che le aziende di tutto il mondo possano tentare di così avviare questo percorso che secondo noi va in direzione futura. E io ho dei commenti su questo, in particolare su ciò che ha appena detto il nostro Manfred, ma mi chiedo se l'audience sia ancora, ci segue ancora, è ancora con noi, siete assonnati. Naturalmente potete rispondere, ma prima di dare la parola a qualcuno del panel, magari lasciamo alla floor, se invece così non fosse, in breve. Sì, vorrei ringraziare il fatto che è stato menzionato il rischio Xylo, l'ho fatto appunto, questo è importante in termini di speranze, ma chiaro il pacchetto è importante, se è ovvio che uno si assume il rischio anche sui dei potenziali ritorni, sul rischio, sugli investimenti, ma è importante sapere chi è responsabile, perché è importante identificare che si assume le responsabilità della tutela dei lavoratori e dei diritti dei lavoratori. Io posso parlare solo di casi individuali, di aziende molto piccole a quanto pare, quindi non parliamo di un contratto collettivo. Per esempio mia figlia lavora nel warehouse di Amazon, è stata impiegata a tempo determinato come lavoratrice temporanea, ma questo potrebbe essere un modello di spostare i diritti e le responsabilità a coloro che appunto si assumono i rischi, e grazie a Xilla per aver menzionato questa cosa che mi ha dato possibilità di intervento su questo tema. Ci sono altri interventi? Sì, un mio intervento molto breve, sì, allora accettiamo quest'ultimo intervento, che è l'ultimo. Just a minute, precedence to the floor. Well, my name is Abbiamo la sensazione che qualcuno stia parlando dal pubblico, purtroppo però senza microfono, quindi le interpreti non riescono a sentire. Yes, indeed. I think this is a good point. Sì, certamente, è un punto importante. All'inizio dicevamo che il nostro problema è relativo non soltanto alla singola legge del lavoro, la labor security, eccetera, e sono d'accordo su quanto lei menziona, è assolutamente corretto e appropriato ciò che dice. Payments were wages or gifts, and for his personal tax purposes. But what was lost was the bit. Adesso, ciò che è andato perso, in realtà ciò che doveva dire il tribunale, non ho esaminato tutte le posizioni. Non sappiamo effettivamente quali erano i diritti del lavoro, no? È un caso difficile, la persona non ha più lavoro ma continua a mantenere la stessa posizione. Volevo ringraziare i discussant per le osservazioni sull'education, sicuramente una delle questioni che affronta la Cina, quindi l'istruzione è una delle forze trainanti che consentiranno di migliorare il livello delle nostre risorse umane in Cina. Grazie. Gli altri discussants vogliono dire ancora qualcosa? Allora continuo io con una annotazione dicendo che due sono gli aspetti. Nel contributo di Dal Punta si è parlato di questioni molto generali che non hanno a che vedere solo con questa sessione di lavori, ma anche con le successive e con il titolo del programma. Quindi invito i colleghi a tornare a ridiscutere alcune delle ipotesi più generali, perché sono state quelle più importanti anche presentate da Riccardo Del Punta. E certamente questo è il futuro della nostra disciplina, non soltanto in termini appunto di termini legali, no? E per quanto invece ha detto il nostro Manfred Weiss, menzionando il possibile passaggio da una regolamentazione sostanziale a quella procedurale, direi che la questione si ripropone da molto tempo, non ha nulla a che vedere con la regolamentazione del mondo del lavoro, ma con la democrazia di per sé. È procedurale la democrazia o è sostanziale? Anche per me è così, però lascio il punto aperto alla discussione, quindi più procedure, perché in realtà siamo in costante evoluzione, quindi importanti sono tutti quegli interventi, diciamo, di natura più soft. Io però considero che la questione debba essere inerente l'oggi e il futuro, quindi procedure per che cosa, che fine, perché gli obiettivi ovviamente sono importanti, se però non si possono raggiungere attraverso le regolamentazioni normative sostanziali, d'accordo, ma altrimenti va considerato a quale fine facciamo tutto questo. E Del Punta ha parlato della sicurezza, della flessibilità, ha parlato del benessere, insomma, se le procedure possono aiutarci a questi fini, benissimo, ma penso che una discussione più appropriata sia sicuramente importante. Poi Manfred, io Manfred oramai lo conosco da talmente tanti anni e non sono sorpreso del fatto che richiami il concetto della collettivizzazione, che in realtà va molto in direzione opposta alla stretta, perché da un lato abbiamo delle forze come l'individualizzazione che viene da dentro, diciamo, no? E sono forze contrapposte, non voglio invadere però il campo di attività del collega, e d'altro canto invece proviene dal mondo, no? La minutiorizzazione, l'economia, insomma, tutto questo ha degli impatti sulle relazioni sociali, quindi tu sei molto contrario a questo. E allora si pone la questione: cosa possiamo fare noi, cioè interventi legali o intervento pubblico dello Stato, cosa possiamo fare per rilanciare o sostenere delle regolamentazioni alla luce dell'economia attuale? E con questo buon appetito.